Allora, ditemi voi, ho domande oppure osservazioni, qualsiasi vostro commento, se avete, cioè sicuramente il testo lo conoscete, quindi non avrà rappresentato una gran novità la mia esposizione, però ne avete sentita un'altra, ecco magari, non so. Se qualcuno vuole intervenire. Senta, io ho letto il libro Sì. di Cattopiedi, recitativo, Vincenzo, ho letto il Cattopiedi nel 1970, andavo a scuola e lo volevo portare in quinta ragioneria come testo e in tutto di noi, capisci? Perché parlava il babbo Gianni Mazzini. È un anarchico, non andava bene. non andava bene. Chiaramente è un altro autore contemporaneo, va bene, Fortasava e gli fa. Però questo libro, con la sua spiegazione, mi è apparso sotto un altro occhio, perché a me è piaciuto tantissimo il modo per me lui non umiliava nessuno. Per lui il primo comandamento forse era non umiliare. Non umiliare, sì, lo Sì, dice proprio, sì, ecco, è vero, è vero. perché proprio era tenere presente prima dei suoi i diritti degli altri e farsi i suoi anche se vedeva che erano cose giuste. Ecco. E Gianna molto probabilmente quella lontananza che ha avuto poi dal padre, portata via dalla mamma, da tutti i familiari durante l'università, andò a Firenze, dovesse essere a Pistoia fino a due. Però si ricordava, proprio come ha detto quando era nella bottega dell'orologiaio, che aveva visto Malatesta che tutto vestito. Io questi passaggi del libro me li ricordo ancora, perché sinceramente ti dico, l'ho ricercato in casa, ma non l'ho trovato, che ho di ricordo. Ecco, è questo. E poi quello che mi ha colpito tanto è quando è lì sulla tomba e leva l'erba e gli dice, gli torna a mente le parole del padre, erbaci. Perché erbaci? Perché non le paghi? Perché solo i fiori che si compra sono fiori. Questi sono fiori forse anche più importanti, perché sono spontanei, non creati. E che vengano su, ecco, e Anzi, va tutto nei particolari dei vari tipi di erbacce. erbacce, ecco, che per me è stato un grandissimo libro, è stata Gianna Mazzini una grande, ha reso bene l'idea di questo padre con i suoi ideali. Forse poi l'ho letto in un momento che gli ideali erano quelli nel 71, si buttava, nel 68 era un. Ecco, e allora forse c'era anche sperare in un mondo migliore che non c'è stato e sì che di conseguenza io l'ho apprezzato molto e la ringrazio tanto perché mi ha aiutato a capire molto di più di quello che magari a 18 anni perché poi i libri andrebbero riletti come Sì, minimo un ma paio di infatti. volte quando l'età e poi dopo anche dopo Sì, 10 e anni, poi è sempre una perché lettura diversa. è una lettura che si capisce Di più. diverse cose diverse che nella prima Diverso, proprio. lettura non ci sono Sì. prese. Vabbè, Grazie. grazie a lei. La Io signora. sono un'entusiasta lettrice, Sì, anche io questo anche romanzo. C'è la non zona della è Mazzini. ma cioè, Cioè, ho cominciato cioè, perché ho letto dei racconti della Mazzini in Italia, non casualmente. No, continuavo commentino lì una chiacchierata. Ascoltiamo la No, volevo solo dire che la sua mi era sembrata una ricerca stilistica leziosa, ecco, e quando ho letto il ritratto in piedi è come se avessi avuto un'illuminazione. E questa cosa possa sfuggire se si contrappone lo stile della Mazzini allo stile del padre, su questa questione dello stile di cui si è parlato, no? E che lei stessa dice in vari punti, dice farei foto, dice a un certo punto, ora non la potrei ritrovare, ma insomma dice io col mio modo di scrivere ho torto a mio padre, perché anche lui era messo a scrivere chiaro, che tutti capissero in modo lineare. Cioè, ecco, lui scriveva manifesti politici e lei matura un'esperienza di scrittura molto diversa. E in un punto dice, però se io volessi essere semplice come mio padre, sarei artificiosa, falserei, perché io non sono così. E vorrei approfondire un momento questo punto, perché a me sembra il punto rivoluzionario del libro, non dal punto di vista dello stile, ma dal punto di vista etico, perché il motivo, perché secondo me è molto da cogliere, il motivo per cui lei scrive, perché scrive del padre, perché scrive, scriveva anche prima, ha scritto tante cose, ma perché scrive del padre. E mi permetto di dire una cosa, a me pare che usi in questo caso la scrittura come tecnica di mindfulness, scusatemi se dico una cosa, cioè come si fa a controllare la propria angoscia, il proprio pensiero, il proprio dolore. Ecco, e lei la usa la scrittura proprio come tecnica per guardare dall'esterno, per uscire dal suo dolore. E dice, c'è un punto molto importante, perché all'inizio, perché c'è quella cosa, quella prefazione, quella dunque, scusate, ho scritto, sì, comunque molto bello proprio, la parte che si intitola atto di contrizione. Ecco, nell'atto di contrizione, perché è tanto difficile scrivere del padre? Lei dice, perché vorrei capire. E qui c'è quella metafora del cavallo e del cocchiere, del cavallo che sul ponte di Santa Trinita si impenna e non vuole assolutamente andare avanti e non c'è modo di convincerlo, solo chi la farò tornare indietro. Ed è incomprensibile questa impennata. È lo stesso incomprensibile per lei perché ha questo blocco, perché non riesce a scrivere il padre. E dice, eppure lo voglio superare. E dice a un certo punto, arrendendomi alla scrittura, può darsi che trovi la strada. Ecco, lo trovo un atteggiamento, una motivazione. Perché uno potrebbe dire, il padre scriveva per la società, lei invece scrive per se stessa, e lo ribadisce diverse volte, scrive per se stessa. Ma c'è uno scrivere per se, cioè c'è una tecnica di scrittura, è una tecnica di scrittura per controllare il proprio pensiero perché possa diventare pensiero comune, perché possa entrare in una dimensione più larga, che esca dal conflitto in cui lei si trova. E quindi io la trovo una scelta non solo, direi, lo voglio dire con i termini di oggi, una scelta politica, che è quella del guardare dall'esterno, riuscire a guardare dall'esterno le proprie sensazioni, i propri pensieri, le proprie emozioni, in modo da metterle in un orizzonte più vasto. In quell'orizzonte più vasto ci sta la libertà propria e la libertà di tutti. Ecco, in questo senso a me sembra che la Mazzini sia una scrittrice rivoluzionaria e che la lettura del suo libro sia di un'attualità assolutamente stringente. Perché, e poi mi chiudo perché non voglio farlo troppo, ma il conflitto esiste, il conflitto psicologico tremendo che le impedisce di scrivere, uno è quello che è stato rilevato, che è questo fatto, il mio stile non è quello di mio padre, tradisco mio padre con questo mio stile elaborato, che però è l'unico che per me è autentico, ecco, e lei deve superare questa cosa. Deve superare il senso di colpa d'aver snobbato il padre sì, scriveva. Anzi, addirittura una volta quasi se ne vergogna un po', come con un amico, no? Sì, si vergogna anche del padre, sì, in certi momenti, quando era adulta, però qui c'è un punto, secondo me, modernissimo, che bisognerebbe mettere a fuoco. E il punto modernissimo è questo. Dal libro la figura della madre appare solo marginalmente, però si sa che le due grandi opere della vecchiaia di Gramanzini sono questo ritratto del padre e poi sulla soglia che è la madre. Perché lei lo dice in vari punti. E c'è quel capitolo dedicato quando loro, lei va a passeggio col padre e si trovano su un uscello a raccogliere le violette e lei salta di qua e di là dall'uscello, questo saltare di qua e di là dall'uscello, come in tutta la scrittura che bisogna leggerla per capire, non è un romanzo che si può raccontare, è la metafora del suo essere divisa tra la visione del mondo della madre e la visione del mondo del padre. Perché il punto che cos'è? È che questo Manzini era un gran bravo uomo, era un uomo che era per la pace, una cosa all'altra, ma aveva fatto una cosa assurda, aveva dilapidato un patrimonio di famiglia per favorire gli operai della fabbrica che dal cui proprietà condivideva col cognato. Il suo grande crimine è un crimine contro la proprietà, perché non ha fatto nient'altro. Sì, poi infatti, anche in generale era comunque considerato. Ma il crimine, certo, che il fatto familiare è quello. Non può superare. Sì, è questo crimine. Poi si combinano anche la dote, la dote per la dote, sì, aspetti di interesse. Allora, il punto secondo me modernissimo è che lei è divisa tra il padre e la madre, lei non può, lo dice a un certo punto, io non potevo aderire totalmente al rigore rivoluzionario di mio padre. Perché c'avevo il. Perché capivo le ragioni della vitalità di mia madre che erano inchiodate in un ordine borghese, ma che erano le ragioni della vitalità e della vita. E infatti lei trascura il padre e si apparta con la madre quando scopre la sua vitalità fisica, e anche in questo è modernissima, perché mette in gioco il suo corpo. Lei sempre parla sempre delle sue sensazioni a partire dal suo corpo e anche dal corpo in crescita. Allora, il punto che a me sembra rivoluzionario è questo, e concludo. Oggi noi vediamo che stiamo andando verso la grande estinzione, va bene? Una grande estinzione che è motivata da rapporti sociali di sfruttamento degli uomini sugli uomini. Cioè è il capitalismo che sta distruggendo le radici della vita. Secondo me la Manzini, scusate, io ne faccio una lettura di oggi, perché naturalmente tutti i classici si leggono con gli occhi di oggi. Ecco, secondo me la Manzini, con la sua scrittura così complessa, rende questa cosa. Non si può scegliere tra la vitalità, tra la vita e il futuro e una prospettiva di rigore rivoluzionario che sarà come faceva il padre. Occorre che la rivoluzione sia oggi. Questa sia oggi e sia nella vita concreta, reale, e la madre rappresenta questa vita concreta, reale. E questa, va bene, la ringrazio di questo intervento particolarmente approfondito, e a parte l'ultimo momento sull'estinzione, ma a parte quello, invece trovo perfettamente condivisibile quanto ha detto a proposito della scrittura, e cioè della Manzini, la quale effettivamente sa di non condividere sia la scrittura sia la visione della scrittura del padre, però nello stesso tempo, come lei ha detto, non può fare altrimenti, perché la sua scrittura, se fosse troppo simile a quella del padre o comunque alle aspettative paterne, sarebbe falsa. Questo lo so estremamente, e non renderebbe proprio vero. Volevo chiedere però una domanda, no, finisco subito. Una sola domanda: la presenza degli animali è molto significativa in tutto il romanzo. Io prima ho portato la camicia di anni, ma ci sarebbe a cavalli, sì, sì. Noi si è fatto questa, questa situazione dei ragazzini come gruppo letterario, sta sentendo capire degli amici della San Giorgio. E veramente si è fatto una, un seminario su questo libro di tanto indietro. Tra l'altro abbiamo avuto anche qui la dittrice, perché questa poi si è fatta davanti a questo quadro, altri ragazzi ci passano, tutti non si rendono conto di cos'è. Cos'è quel quadro? Questa presenza per noi è veramente molto importante in questa biblioteca. Lei parlava di Sciogliere i Gruppi Uccelli, Rossella riuscita a mettere Sciogliere i Gruppi Uccelli, il libro come dicevo molto, il viaggio per la natura, per il mondo. Quindi anche nella rappresentazione simbolica di questo quadro, significa che ci si trova tutto il libro della Mangini. Mi è piaciuta molto la poesia che lei, di cui lei ha parlato, perché è un filone che noi abbiamo preso per di filone, noi siamo molto più focalizzati, ognuno di noi ha fatto un intervento molto bello in questo seminario, focalizzando sul sentimento, sulle emozioni che lei provava anche nella città di Pistoia. Cioè noi abbiamo tenuto come protagonista non solamente il padre e neanche lei, ma la città, perché ci interessava vedere cosa per noi era la nostra città. E quindi un'ottica diciamo un pochino diversa rispetto a quello che poteva essere. No, ma è interessante il fatto che questo filone invece del padre, come rivoluzionario, malato, eccetera, per noi era parallelo alla storia. Invece per noi abbiamo incentrato la nostra ottica, le nostre osservazioni, tra l'altro sono diversi amici che c'erano in queste esperienze, ne abbiamo fatto i seminari, con prendendo l'ottica e anche le emozioni che noi provavamo a passare in quelle strade dove lei era passata. E quindi per noi c'era la nostra storia personale rispetto alla città e rispetto È stato un lavoro molto bello. Infatti io mi ripromettevo di andare a fare questa via degli orti, via delle fiori, un po' quando la prende gli orti. Via dei tempi, tra l'altro, nella città. E per noi veramente è stato diverso. Va di meglio per la città rispetto a lei. Lei è una specialista della Mangini. Non della Mangini, non in particolar modo. Penso possa togliermi due curiosità. La prima, e dove si trovano le carte di studio, la corrispondenza, non so, forse all'archivio Zanti. A parte prima a Roma, non a tanto sono a Roma perché lei poi ha vissuto a Roma. Era la compagna di Falco. Sì, compagna di Falco, Enrico Falco. E quindi a Roma, io penso molto che anche qui, tutto, e poi? Però io credo che la maggior parte delle carte siano a Roma, ecco. A Roma, alla biblioteca universitaria, io ho trovato delle citazioni che facevano riferimento alla biblioteca universitaria, però andrebbe cercato più dettagliatamente, ma sicuramente a Roma. E poi se sa qualcosa di più, cioè questo solo è venuto, lei l'ha anche citato, del rapporto con Enrico Malatesta. Enrico Malatesta, sì, lì è velocemente viene citato perché era amico del padre e anzi è stato uno dei motivi per cui il padre ha subito poi ulteriori denunce, critiche, eccetera. Però nel romanzo è appena accennato, comunque era un anarchico attivo al momento, quindi importante. Ha fondato l'Umanità Nova. Quindi sì, una figura significativa. A Pistoia. E anche l'internazionalista. Ecco. Fino a quando ero ragazzotto io veniva diffuso. Nel un ristretto circolo di anarchici. Però c'era un signore al quale arrivava il pacchetto che poi veniva dato ai simpatizzanti o agli anarchici. Una Pistoia di un bel po' d'anni fa. Scusa, l'intervento prima ha ricordato che aveva dato il 20, 1000, eccetera. che io sono del centro Filippo Bonarroti, Filippo Bonarroti di Lapida, è quello che Lapida i beni di Michelangelo, cioè fa fuori una serie di quadri e per finanziare le organizzazioni rivoluzionarie dell'epoca, diciamo. Per cui diciamo sotto questo aspetto ma anche perché poi si prendono sì, anche perché non ritengono che sia un dilapidare assolutamente è un investimento, non è veramente, insomma, si può anche capire la reazione del cognato, si può capire perché insomma perdere, però l'obiettivo andava via. Si è parlato cioè ci sono vari aspetti, non sto a parlare tanto lungo, ma sono vari gli aspetti che gli spunti che vengono dal dottor Tiziano Valdete, perché ha parlato del sacrificio di questa persona che appunto si sacrifica per i suoi ideali, però cioè, quando si parla di queste persone sembra quasi ogni volta di parlare di persone mitiche, no? Come in realtà poi stiamo parlando di esseri umani, di uomini come noi che avevano i nostri identici problemi, tanto è vero che lui si ritrova con i problemi che si trova con la figlia, la famiglia e tutto qua. Hai parlato della visione dei malfattori, no? Quando hai parlato di malfattori mi è venuto in mente l'immagine che mi è venuta avanti è i famosi manifesti nazisti con banditen, quando parlavano di partigiani, no? Sì, i partigiani erano i banditi, non erano partigiani, erano i banditi, no? Quindi i malfattori, i banditi, e come un certo potere vede sempre, no? Chi si oppone a questo. Hai citato la figura di Cimone come, per saperlo, so riprenderla io, come imprese guerra, proprietà, confini, appunto, ecco, internazionalismo. E quindi tutto quello che fa parte appunto della mentalità capitalista, che appunto il confine, la proprietà privata, e come appunto. E poi hai parlato del sentimento, no? Dell'idea che nasce dal sentimento. Certo, e qui sono le mille vie per cui si arriva a una militanza politica, no? Chi ci arriva per la ragione, chi ci arriva per il sentimento. È venuto a mente un libro, è una raccolta di un'antologia di scritti di Engels, no? Che ha come sottotitolo Scienza e passione rivoluzionaria, perché ci vuole tanto la scienza, quanto la passione, perché con la scienza e basta, si fa poco, diciamo. Ecco, però più di tutti, diciamo, la cosa che mi ha colpito più di tutti di quelle che hai messo in ritratto te è perché si torna al discorso di prima, perché se la rileggi con oggi, cioè questo pezzo qua, il pezzo che hai invertito la finestra, è oggi, stiamo parlando di oggi. Abbiamo per chiudere la finestra e tenere fuori luce, ma la guerra rientra. Puoi chiudere la finestra, puoi guardarti cosa ti pare in televisione, cercare di non guardare i telegiornali perché sono brutti, però poi tanto rientra dall'altra parte, cioè rientra lo stesso. E l'affermazione che fa in fondo è insomma, quella tipo centrale, che l'appartarsi è un diritto. Quindi è inutile cercare di voler chiudere gli occhi di fronte, per fare un esempio di oggi, se Macron dice che mandiamo l'esercito occidentale in Ucraina e poi è la guerra, cioè ma è una guerra che riguarda i francesi, no, riguarda tutti quanti. Io personalmente sono un po', diciamo così, non diffidente, ma incerta negli accostamenti, no? Anche quando prima ho citato Seneca, sicuramente delle analogie ci sono e quindi capisco che anche tu abbia individuato questi possibili confronti. Però siamo anche un po' sempre portati appunto a vedere il passato in funzione del nostro oggi, è naturale questo. e tutte le volte abbiamo bisogno di storicizzare. Comunque sicuramente un romanzo è grande proprio quando anche fa venire queste idee, no, cioè nel senso, magari non bisogna poi sempre storicizzare, rendersi conto delle differenze, eccetera. Però se fa venire in mente qualcosa di questo genere vuol dire che è universale, perché se non fosse universale... Il senso, ora, al di là dell'esempio specifico, il senso è quello che l'appartarsi è un diritto, cioè che dovremmo avere sempre ben presente... Questo è quello che dice il padre, però lei... Che appartarsi per quanto riguarda l'umanità non solo è un diritto, è impossibile. Cioè, te pensi di appartarsi, sì, in realtà poi... Però lei costruisce un tipo di vita diverso, quindi anche in fin dei conti anche il suo appartarsi alla fine non è tale, ecco, diciamo questo. Senta, siccome Manzini Giuseppe aveva avuto rapporti con il Malatesta, lei ha una studiosa di Pietro Gori, no? Ho letto. Qualcosa. Ha avuto rapporti anche con Pietro Gori, Manzini? No, che io sappia no. Anche perché sono zone un po' diverse, sì, perché semmai Manzini è originario di Modena e Pietro Gori l'isola d'Elba, perché tra Malatesta e Pietro Gori non direi, per quanto ne so io, che non è molto. Pietro Gori, sì, ho letto alcune cose, soprattutto testi poetici, perché era avvocato, ma oltre che politico, però ha scritto anche delle poesie e alcune delle quali sono diventate canzoni, altre no, sono rimaste soltanto poesie. Però poi ha viaggiato anche molto, piace poco. E poi dopo è morto... Non c'erano... No, perché gli anni non sono esattamente quelli. Tutte e due sono state a Lugano, ovviamente, ma... Mandini un po' prima, un po' più grande, e perché allora Gori è nato nel 65, 1865, Mandini è nato nel 53, quindi sono vicini, ma Mandini è un po' più grande, e d'altra parte Gori è morto prima, perché è morto nell'11, quindi insomma poteva esserci, ma non credo. Effettivamente secondo me ci sono molte affinità, perché sono degli anarchici molto idealisti entrambi, anche se Gori in realtà è stato molto più attivo, molto più militante, proprio anche questi spostamenti, sì, certamente. Scusa, a quei tempi essere attivo, cosa voleva dire? Fare attentati, colpire... Alcune, ma parla degli anarchici o dei politici? Alcuni no. No, non attentati, ma alcuni sì, basti pensare a Fassanante. Il Gori? No, anche Gori non era uno che metteva bombe a destra. E non lo sapeva. Propaganda. Faceva molte conferenze. Sì, certamente parla anche di odio di classe Gori, cosa che non fa Mangino, per esempio. Mangini trovare l'amore, però alla fine anche in Gori, perché ogni tanto Gori parla di Gori, ma raramente può anche lui trovare l'amore. Però c'erano gli anarchici invece che attentavano, a volte attentavano al re come figura simbolica, però diventa difficile poi, no? Dire, beh, in fin dei conti ha ammazzato comunque una persona. Quindi il discorso diventa molto difficile, perché l'ideale ha un suo fascino. Era perseguitato, per esempio, era perseguitato. Sì. Che cosa consisteva? Nel fatto che appunto chi si scriveva per i suoi scritti, e anche Gori. Veniva incarcerato. È stato incarcerato. Sì, sì. Anche Gori quando era anche a Milano, per esempio, veniva messo in carcere, per esempio, a volte per ragioni preventive, sì, sì. Perché quando c'era, non so, il festeggiamento del primo maggio, uno come Pietro Gori era meglio che si dice meglio che ancora di te. Però effettivamente tra gli anarchici ciopinisti poi c'erano anche gli anarchici che le bombe le mettevano e che anche attentavano col pugnale. Era contro il fascismo? Beh, no, perché con Mangini arriva fino all'età fascista. Gori no, è ben prima. Muore nell'11. No, no, prima, come Passanante, prima ho citato, siamo ancora alla fine dell'Ottocento. Chi ha ucciso Passanante? Non ha ucciso nessuno, ha tentato la vita di Umberto I, invece non c'è riuscito, c'aveva anche il primo. Ecco che dice. E poi è stato, cioè veramente era un diverso. Perché a tentare, a parte, ripeto, l'omicidio non è mai legittimo secondo me, anche quando fatto in nome di un ideale. Ad ogni modo questo tenta di uccidere il re con un temperino e poi viene condannato a una prigionia terrificante all'isola d'Elba, in una torre dove vive come, non lo so, come un essere infelice di poco, sotto il livello del mare, in un'umidità totale, una punizione inconcepibile. Cioè, per un attentato che insomma non ha avuto nessun effetto, nessun re, nessun gli altri che erano si trovavano lì. Comunque, discorso giustamente dice la signora, ma cosa facevano questi anni? E certo, a volte si uccide troppo. Quando non tutti erano come Manzini e non tutti erano attivo anche nella scrittura nel denunciare nel fare se fosse un sitalista però venivano molto bloccati anche prima di potersi esprimere molte volte però li tenevano d'occhio come e lui poteva lavorare comunque come sì, dopo che appunto ha dilapidato, perché lui lavorava nella ditta del cognato e dopo lavorava come orologiario, ma molto nel piccolo, e poi lavorava a modo suo, cioè gli veniva uno e voleva comprare un orologio e diceva vengo a pagare una settimana, sì, ma anche se vieni per due settimane è lo stesso. Era così. E non tutti gli amici. Per fondo la figlia lo amava, lo stesso tempo, lo ammirava. Quindi io sinceramente non conoscevo mai la figura delle padre né della figlia, quindi insomma, io sono della poeta, comunque non conoscevo neanche come scrittrice la figlia, tanto basta questo. Quindi per me oggi è una cosa finita nuova, quindi continuerò in separata serie, insomma, mi dirò qualcosa. Però mi sembra di aver capito che soprattutto il padre, per certi aspetti, ricorda forse anche delle figure, non tanto, forse religiose sbagliate, no? Però forse religiose sbagliate, però non era credente, sì, non era credente, chiaramente, non l'avevo capito, però nel modo di fare, no? A parte la dilapidazione, ad esempio, nel patrimonio delle famiglie, no? Quindi poi anche la perdita degli affetti. Comunque quando siamo una famiglia, quando si è in famiglia, sfido tante persone insomma a vivere comunque nonostante ci sia una casa buona, comunque in cui si viene giusto, tutelare magari la sicurezza anche economica dei figli, della moglie, della famiglia, insomma del clan, e più anche questa parte della non violenza, del non volere fare male agli altri, comunque portare avanti le proprie idee, però allo stesso tempo portarle, diciamo, in modo non violento, forse la cosa un po' a figure anche di tipo, voglio dire, Gesù di Nazareth, però che nella storia cristiana ci sono state. Ma guarda, nel tuo caso, è un punto cruciale, perché in una critica che ho letto, non ricordo che avevo visto, viene proprio, quindi è proprio quello che sta dicendo lei, era una figura effettiva. Sì, perché anche Francesco d'Assisi, ora io non avevo fatto il collegamento, però Francesco d'Assisi, anche della sua famiglia, è stato, veniva visto come un loco, cioè uno, cioè che poi è rimasto nella storia, un grande, però quando cominciò, diciamo, a mettere in dubbio la ricchezza, il via della guerra, comunque si spogliò poi in piazza, veniva visto come un matto, fondamentalmente, cioè anche dalle persone che non è un matto. Quindi è fra virgolette, forse poi viene in mente anche questa cosa qui, forse anche la figlia, no? Che si trovava in Svizzera. Più in tarda età, forse in tarda età, insomma, non in tarda età, però più avanti ha capito insomma il padre da un punto di vista, magari quando poi si ha cominciato a studiare a Firenze, ha cercato un attimino di mettere un po' fuori la figura del padre successivamente. Però perché mi immagino comunque in casa, quando poi il padre se ne va, insomma, non sta più con la madre, comunque ha detto questa è cosa di questa persona. Quando era stato dello non è facile, insomma, mi immagino si può fare mille analogie, no? Però insomma con una famiglia cioè, magari il piacere, ne so, ognuno ci vuole varie cause, varie cose in cui uno crede, no? Però rimane, prende e vende per finanziare magari, ne so, la salvaguardia degli animali o la aiuto dei poveri, fino a, anche alla distruzione stessa di quella che è la tua sicurezza, non tanto il patrimonio, ma la sicurezza. E cioè, non è una cosa che fanno, tra virgolette, le persone qualunque, quindi l'analogia è. Dimmi nome e cognome. Sì.